pezzo del mondo. Qua cosa divide la gente da noi, ma quello che conta è non essere soli, quello che conta che tu sei con me. Adesso che il fumo cancella l'estate, il grigio ritorna scendendo. Thank you.